Ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Undicesima puntata. Scelgo una bella isba verso il centro del paese. Entriamo e mettiamo vicino al fuoco le armi incrostate di neve e di ghiaccio. Andiamo in un'altra isba a prendere 3 galline. Penso che non è giusto prenderle dove siamo ospitati. Altri poi verranno a prenderle qui. Siccome il paese è in pendenza e noi siamo in un punto dominante, vediamo dall'alto l'affaccendarsi della gente che sta arrivando. Alpini della mia compagnia inseguono un maiale che corre a zigzag sulla neve come un pipistrello. Gli sparano anche col fucile. Infine lo prendono e lo finiscono. Corrono, gridano, ridono. Pare un giorno di sagra per loro. Rientriamo nell'isba a spennare le galline tra le grida di gioia della padrona di casa. Mettiamo l'acqua a bollire. Chi porta paglia per il giaciglio, chi legna. Infine ci sediamo sulle panche attorno al fuoco. È bello vedere il fuoco. Stiamo bene, siamo contenti e non pensiamo a nulla. Ma nemmeno qui si può stare tranquilli. È entrato il capitano. Rigoni, che cosa fai qui? Mi dice, e si è rotto l'incanto. Guarda le galline, il fuoco, la paglia, la legna. Cosa fate qui? Ripete. Entrano anche attendenti, furieri, portaordini. Rigoni, vai con gli uomini e le armi laggiù, in quell'isba. E il capitano me la indica, attraverso la porta aperta e la neve che cade giù, in fondo alla balca. Devi andare laggiù a piazzare le armi in quella direzione. E me la segna con la mano. Dice, vi può essere un attacco da un momento all'altro, di partigiani o di soldati. Piazzate le armi e datevi il turno per riposare e scaldarvi. Si tiene per sé l'isba calda con il focolare e la paglia e non ci lascia prendere nemmeno le galline. Antonelli bestemmia e anche gli altri imprecano, ma come sempre mi seguono. Questo è peggio che andare all'attacco. Scendiamo verso il fondo del paese. L'isba è vuota e fredda. Postiamo le armi e cerchiamo di sistemarci alla meno peggio. Accendiamo il fuoco, ma nevica e le armi si incrostano subito di ghiaccio. Così finirà che non potranno sparare. E una la porto dentro e l'altra la piazzo nel vano tra la porta interna e la porta esterna dell'isba, con la canna rivolta verso la steppa. Poi il capitano ci manda giù 2 galline e le cuciniamo nelle gavette. Ci lasceranno tranquilli adesso. Mi fermo sulla porta a guardar nevicare e sento rumore di motori nell'aria. Sono aeroplani, volano bassi, ma nella neve non si distingue se sono nostri o russi. Il rumore giunge ovattato. Vedo bene però che se ne staccano delle cose oscure e poi che si aprono dei paracadute. Corro ad avvertire il capitano. Penso che siano dei paracadutisti russi. Sono in molti e scendono lentamente sulla mugila di fronte a noi, al di là dei frutteti. Il capitano guarda e non sa cosa dire. Subito però veniamo a sapere che non si tratta di paracadutisti russi, ma di munizioni, medicinali, benzina lanciati dai tedeschi. Ritorno al mio plotone. Le 2 galline sono cotte e le dividiamo in 15. Ma nemmeno adesso possiamo stare in pace. Si è fermata qui davanti una slitta carica di feriti del gruppo Bergamo. Un capitano mi chiede ospitalità. Le altre isbe sono tutte occupate, dice. Lasciateci entrare, siamo feriti. Intanto è giunta un'altra slitta di feriti e così lasciamo a loro il posto e il brodo delle galline. Proviamo a sistemarci in una piccola stalla lì vicino, ma è aperta ai 4:20. Il capitano ci manda a dire che poco lontano da noi, a protezione del paese, si è appostato un altro plotone di un'altra compagnia e che noi possiamo ritirarci. Ma dove possiamo andare ora a passare la notte? È già quasi buio. Bussiamo delle isbe, sono tutte occupate. Finalmente riusciamo a trovare i nostri fucilieri, ci danno ospitalità. Ma non ci stiamo tutti, sul tavolo, sotto il tavolo, sulle panche, sotto le panche, sopra il forno, per terra. Mi devo accontentare di restare in piedi, vicino al forno. Ma fuori c'è la tormenta ora e qui fa caldo, anche troppo caldo. L'isba è satura di vapore, di fumo, di odori. Tardivel mi chiede se ho mangiato. Hanno ammazzato una pecora e mi dà fegato cucinato con la cipolla nel grasso della pecora. È incredibile quanto sia buono il fegato e che buon compagno sia Tardivel, che ha fatto 3 anni di Africa e 8 di Naia Alpina. Cenci, che è con il suo plotone in un'isba di fronte a questa, mi manda a dire che se qui siamo troppo stretti qualcuno può andare da lui. Andiamo in 4. Mi allungo sotto il tavolo, distendo le gambe, e mi sembra che in nessun altro posto del mondo si possa star bene come qui. Il lume a olio si affievolisce sempre più. Cenci parla sottovoce con un alpino, si sente frusciare la paglia, il fuoco del forno e il russare calmo dei primi addormentati. E io penso a una luna grande che illumina il lago, a una strada tutta fiancheggiata da giardini odorosi, a una voce calda, a un riso tintinnante al rumore delle onde sulla riva. È meglio che allora. Fuori c'è la tormenta e mi addormento. Battono alla porta, non in modo brusco, in maniera civile, da città, ma insistentemente. Qualcuno si sveglia e brontola. Il tenente Cenci dice: chi sarà? Battono e si sente la tormenta. Mi alzo al buio, vado ad aprire. Un soldato italiano a testa scoperta e senza pastrano mi guarda tranquillamente. Calmo mi dice: buonasera, ingegnere. È in casa suo padre, eh? Lo guardo fisso. Buonasera, dico. Volete entrare? E lui: è in casa suo padre, ingegnere? Sì, sì, dico, ma dorme. Che volete? Sono venuto per gli articoli, risponde. Raccomando a lei la pubblicazione, ma ritornerò più tardi, quando suo padre sarà alzato. Arrivederci, ritornerò più tardi. E così si allontana, tranquillamente, a capocchino, le mani dietro la schiena, e sparisce nella tormenta e nella notte. Quando rientro, Cenci dice: chi era? Uno che cercava mio padre. Aveva degli articoli da pubblicare. Ritornerò più tardi, ingegnere. Buonasera. Cenci mi guarda in silenzio e mi osserva finché io ritorno a sdraiarmi sotto la tavola. Ci svegliamo di soprassalto. Una pallottola è entrata schiantando i vetri dalla finestra, piantandosi nella parete di fronte alla mia testa. Allarmi! Allarmi! Si sente gridare. I partigiani! Usciamo con precauzione. Ombre corrono di qua e di là. Le pallottole passano per l'aria come vespe. Mi metto sotto una siepe vicino all'isba e aspetto di vedere cosa succede. Da breve distanza, una vampata nella mia direzione. Sento la pallottola passarmi sopra. Balzo da un lato, sparo in direzione della vampata e faccio un salto. Silenzio. Poi sento parlare. Sono italiani! Per fortuna non ho colpito nessuno. Li chiamo, mi rispondono e vanno via. Non si capisce cosa stia succedendo. Sto lì fermo e solo. Dall'altra parte della balca scendono persone gridando: italiani, non sparate! Deutschen Soldaten, non sparate, kamerad! Sono tedeschi, che erano stati presi per partigiani. Ma può anche darsi che ci siano realmente dei partigiani. Rientriamo nelle isbe, dormiamo ancora un'ora e viene l'alba. Da quell'alba non ricordo più in che ordine i fatti si siano susseguiti. Ricordo solo i singoli episodi, il viso dei miei compagni, il freddo che faceva. Certe cose chiare e limpide, altre come un incubo, cadenzate dalla voce di Bracchi che rincuorava: forza c'è! O che ci dava ordini: avanti il Vestone! Avanti il gruppo Bergamo! Avanti il Morbegno! È mattina, la colonna si divide in due. Il Vestone è di punta nella colonna di sinistra. In testa la mia compagnia. C'è un bel sole, non fa freddo. Da una pista vediamo venire verso di noi degli automezzi. A una certa distanza si fermano. Gli ufficiali guardano con i binocoli. Sono russi. Arrivano subito dei cannoni anticarro tedeschi. In fretta li mettono in posizione e sparano qualche colpo. Gli automezzi spariscono nella steppa come sono venuti. Poco dopo, forse mezz'ora, Nell'affiorare all'estremità di una mugila, siamo accolti da una nutrita sparatoria di armi automatiche. Stando laggiù in quel paese, i russi vedranno spuntare solo le nostre teste e sparano. Le pallottole passano alte. Ritorniamo indietro di qualche decina di metri e aspettiamo. Arrivano le altre compagnie del Valchiese e l'automezzo cingolato tedesco con sugli ufficiali superiori. Ora bisognerà conquistare questo paese per poter passare. Risaliamo la mugila e scendiamo per l'altro versante verso il paese. Alla nostra destra il Valchiese, alla sinistra le altre compagnie del Vestone. I russi riprendono a sparare. Turn, che cammina qualche passo dietro a me, viene ferito una mano. Mi grida: «Son ferito!» E agitando la mano che cola sangue sulla neve ritorna indietro. Grido di sparpagliarci. Sparano forte i russi. Ci stendiamo sulla neve, così allo scoperto, e poi riprendiamo a scendere. Dietro a un pagliaio, un po' più a destra di noi, si è fermato il capitano con gli esploratori. Li raggiungo con quelli che mi seguono. Sparano tremendamente forte in direzione del pagliaio e quando riusciamo a raggiungerlo tiriamo un sospiro di sollievo. Riparati là dietro, proviamo il funzionamento della pesante. Smontiamo, puliamo, facciamo azionare energicamente la massa battente col carrello di armamento e controlliamo la valvola di recupero gas. Le pallottole continuano a passare ai lati del pagliaio e un portaordini, Ramazzini, che viene mandato da Moscioni con un biglietto del capitano, si accascia gemendo su se stesso appena è allo scoperto. Due dei suoi compagni di squadra e compaesani escono a prenderlo. Lo riportano al sicuro, sempre fra le pallottole che sibilano. È stato colpito all'addome e ora geme sulla neve vicino a noi. Sentiamo dei colpi in partenza e poi vediamo gli scoppi tra le isbe del paese. Sono i nostri 75-13 e non ci sembra più di essere soli. Ora la pesante funziona e mi porto con Antonelli davanti al pagliaio. C'è una specie di bassa trincea di neve. Mettiamo l'arma in postazione e ritorniamo dietro il pagliaio a prendere le munizioni. Tutto il paese è lì, davanti a noi ora. Siamo l'arma, Antonelli e io. Gli altri sono dietro il pagliaio o più su, immobili nella neve. Spariamo a delle slitte che passano veloci tra uno steccato e l'altro e a un gruppo di soldati russi che stanno entrando in un'isba. Vediamo la loro sorpresa. Ma ora ci hanno visto e sparano anche loro. I nostri compagni riprendono ad avanzare. Quelli del Valchiese, lassù a destra, sono alla nostra altezza. Camminano a fatica nella neve alta. I russi sparano. Sentiamo le raffiche. Alpini si trascinano lentamente indietro e altri si sostengono a vicenda. Mi porto con l'arma più avanti e più a sinistra per dominare meglio il paese. Riprendiamo a sparare. L'arma non inceppa un colpo, tutto sembra regolare. Io introduco caricatori e osservo il tiro. Antonelli spara. Da dietro il pagliaio il capitano grida: «Spara! Spara! Spara!» Ma finiamo le munizioni e grido: «Portateci munizioni!» Bodei, Giuanin e Menegolo camminano curvi verso di noi con tre cassette da 300 colpi. Dietro il pagliaio è arrivata una cassa grande da basto che avevano i conducenti della 54. Camminano curvi perché i russi sparano sul serio e vado a loro incontro per aiutarli. Il tenente Cenci osserva con il binocolo il paese e da una trentina di metri mi grida: «Rigoni, attento! Vi sono dei russi che passano a gruppi sotto quel ponte in principio del paese. Io vedo quando partono. Tu puoi vederli appena sbucano da sotto il ponte. Ti avviserò delle partenze e tu allora tieni pronto a sparare. Eccoli che partono!» Io vedo che i russi escono correndo di sotto il ponte. Li vedo per pochi metri e poi saltano in un fosso. Puntiamo l'arma in quel passaggio obbligato. Saranno 200 metri da noi. E Cenci grida: «Pronto, Rigoni!» E Antonelli, che ha gli occhi fissi laggiù, spara. E Cenci grida: «Pronto!» E Antonelli spara e io introduco caricatori. I russi corrono, ma sparano anche su di noi, proprio su Antonelli e me. E le pallottole passano vicinissime. Due colpiscono l'arma, a una gamba del treppiede sotto lo zoccolo dell'alzo. E pallottole entrano nella neve, sollevando piccoli spruzzi davanti a noi, di fianco, dietro a noi. Antonelli bestemmia. La nostra pesante si è inceppata. Mi alzo in piedi e apro il coperchio dell'arma, una cosa da poco. Antonelli bestemmia e mi dice: «Abbassati che t'ammazzano!» Riprendiamo a sparare e mi posto davanti una sull'altra le cassette di munizioni. Qualcosa ripareranno, penso. Una ventina di metri dietro a noi c'è il tenente scomparso, quello che avrebbe dovuto comandare il mio plotone. Sento che si lamenta e chiama. È ferito una gamba. Gli grido che si ritiri da lì, ma non si muove. Allora lo vengono a prendere due soldati della nostra compagnia e io non l'ho più rivisto. So che la gamba ferita gli andò in cancrena e che morì su una slitta. Sicché ora mi sembra che fosse un buon diavolo anche lui. I plotoni fucilieri, che si sono distesi sulla neve un po' dietro a noi, si alzano e inastano la baionetta. Quelli del Valchiese scendono e anche gli altri che sono più in là. Il nostro capitano è tra i primi e grida ordini imbracciando un parabellum russo. Andiamo anche noi, ma l'arma è arroventata e così Antonelli, che vuole prenderla per la canna, si scotta le mani. Ora ci raggiungono anche gli altri compagni di plotone. I russi non aspettano di venire alle corte e se ne vanno. Piazziamo ancora la pesante, spariamo quelli che ritardano. Siamo alle prime isbe e qualcuno lancia delle bombe a mano. Intanto scendono sferragliando i carri armati tedeschi. Ho trovato per terra un disco rosso di quelli che usano le autocolonne per le segnalazioni e con questo mi metto a sbracciare in direzione dei panzer segnalando via libera. I tedeschi passano ridendo. Appena entrano in paese, quelli che sono sui carri saltano agilmente a terra e io osservo il modo che hanno di occupare le isbe. Danno un calcio alla porta, balzano da un lato, spianano la pistola mitragliatrice e poi piano piano guardano dentro. Dove vedono mucchi di paglia, sparano dentro qualche colpo e scrutano con le pile negli angoli bui, nei sotterranei. Mi metto a girare da solo il paese. I borghesi sono quasi tutti scomparsi. I soldati nostri che entrano nelle isbe non fanno come i tedeschi. Aprono le porte e varcano le soglie senza sospetto. Mi imbatto in una pattuglia del genio alpino. Rimango meravigliato a vederli in quel luogo e chiedo loro di Rino. «È qui con noi», mi dicono. «O almeno lo era sino un momento fa». E mentre parlo con loro, vedo Rino attraversare di corsa la strada. Anche lui mi vede. Ci chiamiamo. Siamo uno nelle braccia dell'altro. Ha l'elmetto calcato in testa. Stringe nella mano il moschetto e con l'altra mano mi afferra il collo. Rino, tutta la mia giovinezza mi vedo davanti. Il mio paese, i miei cari. Siamo stati a scuola insieme. Lo ricordo com'era da ragazzo e mi vien voglia di chiedergli perché sia cresciuto. Ma non so dirgli nulla. Vedo il suo ardore, il suo desiderio di rendersi utile, di fare qualcosa per chi non sa fare o anche per chi non vuol fare. Poi mi accade di trovarmi nuovamente solo. Non so come sia stato. Ed entro in un'isba per tornare subito fuori. Un cavaliere tedesco passa al galoppo per il paese gridando «Ruski Panzer! Ruski Panzer!» Il rumore dei motori gli è dietro. Sento anche lo sferragliare dei cingoli. Impallidisco. Vorrei farmi piccolo, in modo da potermi cacciare in un buco da topo. Mi metto dietro a uno steccato e attraverso le fessure vedo i carri armati che passano a meno di un metro di distanza. Trattengo il fiato. Su ogni carro vi sono dei soldati russi con armi automatiche in pugno. È la prima volta che ne vedo in combattimento così da vicino. Sono giovani e non hanno la faccia cattiva, ma sono seria e pallida, con punta, guardinga. Indossano pantaloni e giubboni imbottiti. In testa hanno il solito berrettone a punta con la stella russa. Avrei dovuto sparare? I carri erano tre. Passarono l'uno dopo l'altro, rasente allo steccato. Spararono qualche raffica così a caso e scomparvero. Io mi precipitai verso un'isba. Dentro c'erano tre ragazze. Erano giovani e mi sorridevano, tentando così di indurmi a non cercare quello per cui ero entrato. Trovai del latte e ne bevetti un poco e in un cassetto tre scatole di marmellata, alcune gallette e del burro. Tutta roba italiana, presa forse in qualche magazzino militare abbandonato. Le tre ragazze ora quasi piangevano e mi si facevano attorno con preghiere. Mi sforzai di spiegar loro che quella era roba italiana e non russa e che quindi potevo prendermela e che avevo fame e che i miei compagni avevano fame. Ma le ragazze quasi piangevano, mi guardavano supplichevoli e così lasciai loro una scatola di marmellata e un pacchetto di burro. Uscii con il resto della roba rosicchiando una galletta. Le tre ragazze guardavano per terra e dicevano «spassiba». Fuori feci in tempo a vedere le ultime cannonate che si scambiavano i carri russi e tedeschi. Mentre ero nell'isba non avevo sentito niente. Le ragazze mi avevano fatto dimenticare la guerra per un attimo. Seppi più tardi che il cavaliere passato poc'anzi gridando aveva avvisato i carri tedeschi che si erano appostati fuori dal paese. I carri russi ora bruciavano tutti e sulla neve si vedevano i segni del breve combattimento. Solchi di improvvise virate, di giri viziosi, di fermate brusche e chiazze nere di olio ed altro. Un carro era stato colpito nei cingoli e i cingoli segnavano la neve come due strisce nere tracciate su un foglio bianco. Tristi come moncherini di una cosa già viva. Cadaveri bruciavano vicino ai carri. Dei soldati russi che scesero da un carro caddero subito sulla neve. Un tedesco si avvicinò cauto, strisciando quasi, e da pochi centimetri sparò nella nuca ai russi. Gli altri tedeschi, da poco più lontano, facevano fotografie e ridevano. Agitavano le braccia e parlavano, mostrando sulla neve i segni del combattimento. Ma da un carro russo che bruciava partì una raffica di arma automatica in direzione dei tedeschi e questi si sparpagliarono subito come uno stormo d'uccelli. Due salirono sul loro carro e tirarono un colpo di cannone al carro russo e questo, colpito nella riserva delle munizioni, saltò in aria come si vede qualche volta al cinematografo. Io assistevo all'accaduto da non molto lontano e tutti i russi che avevo visto passare di dietro un semplice steccato ora erano lì morti sulla neve. Gli alpini del mio e degli altri plotoni si erano radunati nelle vicinanze e io vado da loro. Distribuisco quel po' di roba che avevo trovato nell'isba e per me spalmo su una galletta un po' di burro e marmellata. Il capitano ha visto, mi chiama e mi rimprovera davanti a tutti perché dice: questo non è il momento di mangiare o di pensare a mangiare, e mi fa mettere via ogni cosa. Forse ha la febbre il capitano. Non rispondo e mi ritiro in disparte. Poi il capitano mi chiama e mi dice: dai qualcosa anche a me da mangiare. Lasciamo il paese. Incontro Rino un'altra volta. Ho bevuto un secchio di latte, mi dice e sorride. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.